in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, ultimo giorno di aprile, se n'è andato anche aprile, domani primo maggio ci risentiremo per chi vorrà verso le 7:15, i giornalisti della carta, per quella anomalia che ogni tanto segnalo, non lavorano, però siccome lavorano oggi domani i giornali ci sono, ma naturalmente lavorano i nostri colleghi della radio e del sito, quindi comunque domani aggiornamenti poi oltre i giornali, perché poi il 2, martedì 2, i giornali non saranno in edicola. Grazie agli ascoltatori che già mi hanno augurato il buongiorno, la buona domenica, e grazie a chi vorrà mandare dei messaggi al 349-238-6666 o SMS o WhatsApp. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che questa settimana ha un'interessantissima inchiesta sul cosiddetto welfare aziendale. Welfare in inglese semplicemente significa stare bene, però con gli anni abbiamo imparato a usarlo, e l'hanno fatto per primo i paesi anglosassoni, per indicare appunto le politiche che riguardano le scelte che uno Stato fa per i cittadini, quindi c'è dentro tutto, dalla sanità a qualsiasi altra politica che favorisca la vita normale dei cittadini, e naturalmente c'è anche il welfare aziendale, c'è tutti quei casi in cui le aziende, al di là di quello che prevede la legge, quindi al di là dei vari bonus governativi, introduce delle politiche di aiuto, per esempio buoni scuola, assicurazioni sanitarie, magari delle ferie in più, anche perché poi ci sono richieste diverse da azienda a azienda, da tipo di lavoratore a tipo di lavoratore e anche da paese a paese. Quindi le aziende italiane che sono presenti in molti mercati modulano anche il loro welfare aziendale. Trovate tutto alle pagine 2 e 3 con un lungo articolo in introduzione di Cristina Casadei e anche tutto uno schemino per i vari casi. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche una lettera di Massimo Mucchetti, che è senatore del PD, che parla del decreto legge concorrenza, e inizia così: perché serve la doppia fiducia, caro direttore? L'Italia sta correndo il rischio di chiudere questa legislatura senza aver varato alcuna politica della concorrenza, quindi uno sprone poi che chiudere la legislatura, insomma non lo sappiamo ancora in realtà quando si chiuderà questa legislatura, se si andrà a elezioni anticipate in ottobre come alcuni ipotizzano, oppure se la legislatura scadrà nella sua scadenza naturale, cioè all'inizio del 2018. Sul Sole 24 Ore anche la terza settimana con le due nuove iniziative della domenica, che trovate poi alle pagine 20 e 21, le pagine dei commenti. Continua il viaggio in Europa di Carlo Ossola, lo studioso, che ripercorre la storia di alcuni luoghi dell'Europa anche per farci capire quanta storia c'è dietro l'Unione Europea e che incredibile traguardo sia stato appunto la creazione dell'Unione Europea. Questa settimana parte da Negrentino. Invece l'altra novità, la rubrica Tavola con, firmata da Paolo Bricco, l'avete sentito anche nel GR, questa settimana è un incontro con Gianluigi Gabetti. Corriere della Sera ha un titolo principale dedicato agli aggiornamenti sulla Brexit, perché avrete sicuramente seguito, dopo il famoso referendum del 23 giugno dello scorso anno, sono iniziati molto faticosamente i negoziati per stabilire le regole con le quali il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea. E a sua volta adesso l'Unione Europea dice quali sono le sue condizioni, quindi il titolo del Corriere della Sera: avviso a Londra sulla Brexit. Questo avviso è venuto dal Presidente della Commissione Europea Juncker, che dice, quasi sono parole un po' minacciose, che insomma innanzitutto c'è il nodo dei soldi che il Regno Unito dovrebbe ancora all'Unione Europea, si parla di 60 miliardi. Probabilmente si discuterà di questo anche al G7, può darsi, della Brexit. In ogni caso, ancora appunto, si tratta di un momento in cui tutti mettono le loro condizioni sul tavolo, poi veramente come avverrà questa Brexit lo vedremo nei prossimi mesi. C'è anche un titolo subito sotto la testata del Corriere che riguarda quello che viene definito lo scontro tra Alfano e Orlando sulle ONG, quindi uno scontro tutto interno al governo tra il ministro degli esteri, ex ministro dell'interno, e Orlando, ministro della giustizia. E poi vi segnalo, richiamata in prima pagina, una intervista a Marion Le Pen, che è la nipote di Marine Le Pen, ha 27 anni, è la più giovane deputata francese, naturalmente nelle file del Front National, e dice, il virgolettato scelto per titolare l'intervista fatta da Stefano Montefiori, rifonderemo la Francia e l'Europa, siamo noi i veri eredi di De Gaulle. La Repubblica di fatto titola su questo scontro sulle ONG, sapete, questo, se ne è parlato tanto anche qui a Radio 24, è una vicenda su cui ancora non si riesce bene a fare chiarezza e si spera in un'inchiesta il più veloce e seria possibile su queste eventuali collusioni tra alcune ONG e i trafficanti di uomini nel Mediterraneo. Migranti, Alfano divide il governo e poi c'è questo molto evidenziato da Repubblica, battibecco tra il presidente della Camera Pietro Grasso e il presidente del Senato Pietro Grasso e il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle. Grasso gli ha detto: non sei preparato, vai a studiare. E qui addirittura Repubblica ci fa un titolo su questa dichiarazione di Grasso. Poi vi segnalo l'intervista di Enrico Franceschini a Tony Blair, che viene un po' da ridere perché abbiamo detto che ormai i negoziati sono avanzatissimi. Theresa May ha indetto elezioni anticipate con il dichiarato scopo di avere una maggioranza più forte per negoziare con più autorità la Brexit, ma Tony Blair dice in questa intervista a Enrico Franceschini: Londra nell'Unione Europea ci spero ancora. E visto che è inglese, gli potremmo dire sì, è proprio un wishful thinking, cioè lo sperare. Desiderare talmente qualcosa da appunto sperare che si avveri, ma non basta desiderare una cosa perché si avveri, purtroppo. Una fotonotizia in realtà dedicata a Donald Trump, perché sapete che lui ha questa ufficialmente da quando è presidente risiede alla Casa Bianca, ma la sua vera casa, la sua residenza è a Palm Beach in Florida, e è stato molto criticato perché di 100 giorni di presidenza che sta festeggiando, potremmo dire così, in questi giorni, anticipando perché sappiamo che nei dettagli non si sa ancora bene come verrà fatta, però ha anticipato la riforma fiscale, la tanto attesa riforma fiscale, però di questi 100 giorni 18 li ha passati in Florida. La stampa ha una foto dedicata a Ferrari, come forse ci si può immaginare, perché la Ferrari è parte in pole position con Vettel davanti a Raikkonen, non succedeva da 9 anni, quindi grande enfasi sulla stampa a questo. Il titolo principale però è dedicato al viaggio del Papa, o meglio al ritorno del Papa dall'Egitto, perché come spesso succede, sul volo che lo riporta in Italia il Papa tiene una sorta di conferenza stampa, di dialogo con i giornalisti e ha parlato di tutto e anche del fatto di aver sollecitato in qualche modo le autorità egiziane per fare chiarezza sul caso Regeni, Giulio Regeni, il ricercatore torturato e poi ucciso al Cairo più di un anno fa. Il Messaggero, migranti, scontro nel governo, quindi il Messaggero appunto enfatizza quella che di fatto è una presa di posizione opposta sulle dichiarazioni del procuratore di Catania su queste presunte collusioni tra alcune ONG e gli scafisti, trafficanti di uomini. Alfano difende il procuratore di Catania, mentre Orlando gli risponde ironicamente, quanto poi l'ironia sia opportuna in questi casi, lo lascio naturalmente giudicare ai lettori, ma Orlando ha risposto: ma quando era al Viminale non lo aveva capito? occupiamoci della questione più di, no, di guardare al passato, possono esserci stati degli errori, se adesso è sul tavolo questa questione occupiamocene, facciamo chiarezza al più presto, anche perché è tempo di 5 per 1000, 8 per 1000, dobbiamo anche giustamente sapere se le ONG a cui destiniamo i nostri parte delle nostre tasse sono davvero trasparenti. Ci lasciamo però un attimo per una pausa, ci ritroviamo con le altre copertine dei giornali di oggi tra qualche minuto. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli e grazie a tutti gli ascoltatori che già svegli a quest'ora stanno mandando dei messaggi al 349-238-6666. Eravamo sulle prime pagine dei giornali, ve ne segnalo ancora due o tre. L'Avvenire, ovviamente tutta dedicata al Papa, al suo ritorno dal Cairo. Il titolo scelto tra le tante cose, estrapolato tra le tante cose di cui ha parlato Papa Francesco, è la carità, unico estremismo. E poi il monito all'Europa, attenzione ai rischi appunto di scioglierti, tu Europa. E poi questo all'interno, queste straordinarie, secondo me, dichiarazioni di questo straordinario Papa, quando dice i meglio atei che cattolici ipocriti. Libero titola sul fatto che Berlusconi è caduto ieri nella sua casa di Portofino e si è fatto male a un labbro, gli hanno dato 3 punti. Il titolo: oddio, virgola, Silvio si è rotto ancora. Berlusconi cade, Forza Italia fatica a rialzarsi. Vittorio Feltri inizia il suo editoriale, Vittorio Feltri, direttore di Libero, con queste parole. Povero Silvio Berlusconi, come tutti i vecchi, quando non ne ha una, ne ha due. Fotonotizia, o meglio illustrazione, un ritratto di Benny, che è il caricaturista di Libero, dedicato al ministro degli esteri Alfano, ex ministro degli interni, che appunto ha in corso questo battibecco con il ministro della giustizia, perché Alfano, come abbiamo detto, dà ragione al magistrato di Catania che ha detto di avere la certezza ma non le prove. Pensate al paradosso di questa frase, detta poi da un magistrato: avere la certezza ma non le prove che ci sono delle collusioni tra alcune ONG e gli scafisti. Antonio Socci si esercita sul fenomeno Marine Le Pen e il titolo è: più moschee fanno, più Le Pen prende voti. Mentre su Papa Francesco il commento è affidato a Renato Farina, poi lo trovate a pagina 13. Il titolo della pagina è meglio atei che cattolici ipocriti, ma non illudiamoci, non Renato Farina naturalmente è molto critico verso questa frase di Papa Francesco. Dico naturalmente perché sia lui sia Socci non risparmiano critiche a qualsiasi cosa dica Papa Francesco. Vi segnalo la prima pagina del Secolo XIX perché ha 3 notizie molto legate alla Liguria e tutte e tre interessanti. La prima è che ieri è stato aperto questo che viene inaugurato questo red carpet, perché è un vero e proprio tappeto rosso, che è lungo 8 chilometri e collega Rapallo a Portofino, e appunto chi vuole, chi se la sente di camminare per 8 chilometri proprio con vista mare, che più vista mare non si può appunto camminare, farlo addirittura su un tappeto rosso. E a proposito però di camminare, c'è anche la proposta di mettere un numero chiuso, se l'avete sentito, dopo quello di numero chiuso per Piazza San Marco, anche numero chiuso per invece il sentiero, il cosiddetto sentiero azzurro che attraversa le Cinque Terre, un'altra zona bellissima della Liguria, perché ovviamente più persone, più turisti e anche più rischi per l'ambiente. E poi l'ultimissima notizia, che appunto ancora sulla prima pagina del Secolo XIX, l'acquario di Genova, che è sicuramente l'acquario più famoso d'Italia, anche il più grande e il più visitato, compie 25 anni e viene ripercorso questa storia dell'acquario, il sogno che riuscì a svegliare una città. Prima avevo dimenticato di segnalarvi la copertina dell'Espresso, che oggi è in edicola con La Repubblica. Il disegno è di un tandem, alla guida del tandem c'è Matteo Renzi, dietro di lui c'è Paolo Gentiloni, a cui però Matteo Renzi dice Paolo stai sereno. Dopo il voto francese, e glielo dice in francese, dopo il voto francese, le primarie PD, Renzi fa partire il conto alla rovescia per il governo Gentiloni. Obiettivo elezioni a ottobre. Questo è il retroscena dell'Espresso. Abbiamo detto la legislatura in realtà scadrebbe all'inizio del 2018, ma le elezioni anticipate potrebbero esserci appunto a ottobre. Vi risegnalo, perché è davvero interessante, questo è veramente il welfare del futuro, la pagina 3 con tutti i casi sul welfare aziendale, e anche questo cambiamento registrato, che mentre una volta erano solo le grandi aziende a prevedere queste misure di welfare aziendale, adesso lo fanno anche le piccole. E poi la copertina di Imprese e Territori, ma a volte parliamo di del tessile abbigliamento, la seconda industria manufatturiera dell'Italia, ma un'altra importantissima industria che non solo è volano economico, ma è anche ambasciatrice all'estero di tutto quello che l'Italia esprime in creatività e capacità artigianale e industriale. Parliamo del legno arredo, e Giovanna Mancini, che questo settore lo segue da vicino e con grande attenzione durante tutto l'anno, non solo per il Salone del Mobile di aprile, si concentra sui mobili da ufficio. L'Italia spinge i mobili da ufficio. Bene Stati Uniti e Regno Unito, c'è un calo in Medio Oriente, dove però c'era stato un boom nel 2015. Vi risegnalo a pagina 20 l'incontro a tavola con Gianluigi Gabetti, firmato da Paolo Bricco. E invece dal Corriere della Sera, dalle pagine interne, un approfondimento sulla Turchia, perché di nuovo fugge un po' in questi giorni, sfugge un po' alla cronaca quello che sta succedendo in Turchia, dove in realtà Erdogan si sta organizzando dopo aver incassato la vittoria al referendum che gli ha dato poteri straordinari, un referendum di modifica della Costituzione turca. Adesso l'ultima di Erdogan è una censura a Wikipedia. Perché? Perché Wikipedia, secondo Erdogan, avrebbe diffamato il paese. Ankara chiede modifiche al profilo di Erdogan e ad altre pagine. Wikipedia ha rifiutato, e così adesso appunto Wikipedia rischia di non essere più accessibile alla maggior parte dei cittadini navigatori turchi. Dico la maggior parte perché poi magari ci sono quelli particolarmente abili nell'usare il computer che riusciranno lo stesso a avere accesso a Wikipedia, ma per la maggior parte delle persone non sarà più possibile. Un'inchiesta di Rita Querzé, che trovate a pagina 21, che si abbina a un'iniziativa del Corriere che si intitola Moms Don't Quit, le mamme non si arrendono, non lasciano. Il problema è che i dati dicono che dopo la nascita di un figlio una donna su 5 decide di restare a casa. Chi resiste invece si trova a guadagnare il 20% meno di prima. Dalle agevolazioni fiscali per la babysitter al premio alla natalità, ecco tutte le misure per invertire la tendenza, ma non sono sufficienti. L'idea sbagliata che sia un problema da risolvere in famiglia. Questo è sicuramente un argomento in cui in Italia si parla più che in altri paesi, perché ci sono delle resistenze culturali comunque al fatto che le donne lavorino, resiste il gap salariale, che poi però sappiamo che esiste anche nella apparentemente avanzatissima e molto progressista Silicon Valley. Quindi quello del gap salariale tra uomini e donne è un problema ovunque, forse lo è un po' di più in Italia, e appunto è bene che comunque se ne continui a parlare. Dal Corriere Salute, che è la parte che ogni domenica il Corriere dedica ai temi della salute, vi segnalo l'approfondimento di questa settimana, che è sul problema delle liste d'attesa per alcuni esami fatti attraverso il Sistema Sanitario Nazionale. 7 italiani su 10 sono costretti ad aspettare mesi, se non addirittura qualche anno, per ottenere una prestazione sanitaria. Non tutti sanno però che esiste un piano nazionale in base al quale è possibile esigere tempi certi. Vi spieghiamo che cosa fare perché i vostri diritti siano rispettati. E c'è anche il caso di eccellenza, che è quello dell'Emilia Romagna, ma anche in Veneto si sono fatti tantissimi progressi su questo, dove appunto si è riusciti ad abbreviare molto i tempi per fare l'esame che il medico di base ci ha richiesto, o un altro tipo di specialista ci ha richiesto. un'intervista a Su Repubblica ad Andrea Guerra, che è presidente di Italy, il gruppo fondato da Oscar Farinetti. Andrea Guerra, che è stato per molti anni amministratore delegato di Luxottica e poi consigliere economico di Renzi, è stato cooptato appunto da Oscar Farinetti come presidente del gruppo con il chiaro scopo di accompagnare Italy verso la quotazione. E infatti qui ribadisce Andrea Guerra: entro 18 mesi la quotazione, il fatturato continua a crescere e l'obiettivo è 500 milioni. L'inchiesta consueta della stampa della domenica è dedicata alla corruzione, un po' perché c'è una legge antitangenti in arrivo, anche se non è ancora definita in tutti i suoi, dettagli, perché il testo unico è all'esame della Commissione Giustizia del Senato. Però a questo si aggiungono nuovi dati, di cui parla la stampa, se i colletti bianchi si comportano da boss, da Mani Pulite, la grande Tangentopoli, insomma lo scandalo scoppiato nel 1992, a Mafia Capitale, invece scoppiato nel 2016. Negli ultimi 25 anni i reati legati alle tangenti hanno subito un notevole incremento. Sempre più spesso i protagonisti usano metodi mafiosi e la piaga della corruzione vale ormai, pensate, 100 miliardi l'anno, quindi altro che manovre fiscali. Dal Messaggero l'approfondimento più dettagliato sul salvataggio dell'Alitalia, di cui si è parlato tantissimo nella scorsa settimana, ma vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. C'è ribadito giustamente lo schema che fotografa l'Alitalia, che ha 12.500 dipendenti, circa la metà dei quali iscritti ai sindacati. Il settore del volo è diviso in 1.600 piloti e circa il doppio di assistenti di volo, e poi ci sono appunto la quantità di voli operati e soprattutto la perdita. La situazione al 28 febbraio è che in questo momento la perdita accumulata dall'Italia è di 205 milioni e il patrimonio netto è negativo per 72,8, quindi tecnicamente l'Alitalia è un'azienda fallita. Vi segnalo, vi dicevo, sull'Avvenire trovate tutti i dettagli sul viaggio lampo, potremmo dire, durato un pochino più di 24 ore del Papa in Egitto, tutto quello che il resoconto degli incontri che ha fatto e poi le cose dette appunto ieri durante il volo. E poi questa omelia dove appunto ha proclamato queste parole, secondo me, come ho detto prima, eccezionali: meglio non credenti che ipocriti, la vera fede ci rende più misericordiosi, onesti e umani. E poi un approfondimento sulla Corea, perché qui continuano ad arrivare le notizie. L'ultima di ieri è che Pyongyang ha lanciato un altro razzo, viene definito un razzo flop, però intanto l'ha lanciato, e quindi anche Donald Trump si è affrettato a dire: attenzione, perché andiamo velocemente verso il rischio di un grande conflitto. E c'è uno schemino da cui si capisce molto bene qual è la gittata dei missili nordcoreani. Ci fermiamo però un attimo a proposito di gittate e di traffici per le informazioni sul traffico, e ci ritroviamo per l'ultima parte della rassegna. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, e do ragione all'ascoltatore che dice: ma mi sembra di averlo fatto capire nel modo in cui ho parlato del titolo di Repubblica, che questa frase del Presidente del Senato rivolta a Di Maio è come sempre un modo molto superficiale di affrontare il confronto politico. Grasso, che appunto ha detto a Di Maio di studiare, ma tutti abbiamo bisogno sempre di studiare, non credo che nessuno possa dirsi sempre completamente edotto su un tema. Ma ultime segnalazioni prima di passare ai supplementi della domenica. Dal Fatto Quotidiano, un bellissimo ricordo che prende spunto da un libro appena uscito di Maria Montessori, forse la più grande neuropsichiatra e pedagogista italiana del secolo scorso, ma forse appunto da quando esiste la pedagogia, la neuropsichiatria come scienza che viene anche ascoltata. E lo spunto appunto è questo testo inedito che spiega qual è il suo metodo, che in realtà viene seguito in tutto il mondo da tante scuole, il suo metodo di insegnamento. Ultimissima segnalazione dal giornale, sempre sulla questione Alitalia, qui con un taglio un po' diverso: se Alitalia fa crack, ecco chi troverà un altro posto subito. Abbiamo detto 12.700 circa i dipendenti complessivi di Alitalia. Secondo questa analisi di Paolo Stefanato, il settore aereo può assorbire 3.000 dipendenti, soprattutto i piloti, mentre le hostess e gli impiegati sono quelli che avrebbero più difficoltà. Avevo detto ultima segnalazione, no, ce n'è ancora una, questa è sempre dal giornale, forse avrete seguito questa non polemica, però insomma questo dato di fatto che Donald Trump è il primo presidente degli Stati Uniti a non avere un pet alla Casa Bianca, e quindi Oscar Grazioli, che sul giornale si occupa sempre di questi temi, ci spiega appunto: Trump rompe la tradizione, zero animali alla Casa Bianca, è il primo presidente che l'ignora in più di un secolo, sfidando l'impopolarità. Ma c'è anche chi dice meglio così. E ecco, vi dicevo appunto di non farsi ingannare dal titolo in prima pagina del pezzo di Renato Farina su Papa Francesco, perché lì c'era soltanto il virgolettato "meglio atei che credenti ipocriti", e invece all'interno a pagina 13 il titolo è, rivela meglio la posizione poi espressa nell'articolo, che è: Francesco non si tiene più, meglio atei che falsi credenti. E poi sottolineato, quasi fosse una colpa, che il Papa ha iniziato e terminato l'omelia in lingua araba, cioè la lingua del paese che lo ospitava, e anziché prenderlo come un segno di rispetto viene presa quasi come una resa. Ma veniamo ai supplementi culturali. Cominciamo come sempre dalla Domenica del Sole 24 Ore e dal breviario di Gianfranco Ravasi, che questa settimana si intitola Bestemmia ed è una citazione dalla scrittrice Simone Weil. Mettere la verità prima della persona è l'essenza della bestemmia, scrive Gianfranco Ravasi. È morta a soli 34 anni nel 1943, ma Simone Weil, straordinaria scrittrice ebrea, ha lasciato un'eredità testuale umana che ancora oggi interpella il lettore. Affascinata dal cristianesimo, nelle sue pagine ha spesso offerto intuizioni teologiche e filosofiche folgoranti. È il caso di questa frase, simile a un aforisma, che rivela soprattutto ai nostri giorni un'indiscutibile attualità. Il fondamentalismo, infatti, sacrifica una verità dogmatica, spesso deformata e degenerata, la vita di tante persone, ponendole sull'altare di un idolo mostruoso. È così che scatta l'essenza della bestemmia, che è negare il vero Dio, la cui immagine suprema è proprio nella creatura umana. In questa linea si sono mosse tutte le ideologie quando sono diventate potere e dominio. Pensiamo all'infamia nazista e comunista del secolo scorso, oppure alla costante regola della ragion di Stato, che non ha mai esitato a schiacciare milioni di persone, striando di sangue le vie della storia. Scriveva ancora Simone Weil: ciò che fa capire se uno è passato attraverso il fuoco divino non è il suo modo di parlare di Dio, ma è il suo modo di parlare dell'uomo e della terra. La copertina vera e propria però è dedicata a Renzo Piano, forse l'architetto italiano più famoso, premio Pritzker. Il premio Pritzker è un po' l'Oscar, il Nobel dell'architettura, perché Renzo Piano ha preparato per la città di New York una serie di progetti per la periferia. Ce li spiega Fulvio Erace, l'architetto, che è anche tra l'altro in Italia senatore a vita, appena inaugurato il Landfest Center of the Arts della Columbia University, di cui aveva già disegnato parte del campus, un edificio trasparente, semplice e autorevole, lontano dai grattacieli di Manhattan. E c'è anche uno scritto di Renzo Piano che definisce appunto l'apertura di questa scuola d'arte della Columbia University una festa per studenti cercando la bellezza. Vi segnalo anche, a proposito di memoria che va tenuta viva, a pagina 2 del Domenicale, che poi è la pagina 24 del Sole 24 Ore di oggi, un articolo di Eliana De Caro dedicata all'Argentina, alla vicenda storica dei desaparecidos, cioè i ragazzi e ragazze sparite, in realtà erano quasi tutti molto giovani, durante il regime. E Eliana Di Caro madre di Plaza, ha parlato con Tati Almeida, una delle madri di Plaza Plaza de Mayo, che è una piazza di Buenos Aires che è diventata il simbolo della protesta di queste madri che ancora chiedono, se non altro, di sapere con certezza come sono stati uccisi i loro figli. A 40 anni dal primo raduno a Buenos Aires parla una delle madres dei desaparecidos, il cui figlio sparì nel 1975. Il presidente Macri, che è l'attuale presidente dell'Argentina, vuole cancellare la memoria storica, ma anche dopo di noi si lotterà per la verità. Vi segnalo poi, oggi non lo sapevo, ma quindi è anche la mia festa, chissà di quanti di voi, è il National Pets Parent Day, cioè si festeggia i genitori degli animali, letteralmente. L'articolo però è anche abbastanza critico e ironico su questo atteggiamento che a volte abbiamo appunto da genitori nei confronti degli animali, specie magari quando di figli umani non ne abbiamo. E quindi il Guido Guerzoni scrive questo, così potremmo definirlo un divertissement, e se il pesce rosso ci soffia l'eredità. E poi vi segnalo, perché questa è una mia passione, i premi Ig Nobel, scritto proprio Ig Nobel, perché oltre ai premi Nobel ci sono anche i premi Ig Nobel, che sono premi a vere ricerche, cioè non sono inventate, però sono ricerche assurde, almeno a un primo sguardo. E così la Bompiani ha raccolto alcune di queste ricerche, perché sono ormai molti anni che viene fatto questo premio. Il libro si intitola 14 scoperte scientifiche che non sono servite a niente, benché questo sia tutto da dimostrare, perché poi a volte insomma anche le ricerche apparentemente più inutili, per quel meccanismo anche della serendipity, cioè che si trova qualcosa che non si stava cercando, magari ci portano anche a scoprire cose interessanti. C'è qualcuno che sa leggere il supplemento del Sole 24 Ore, della domenica del Sole 24 Ore, dedicato ai lettori più piccoli. Questa settimana è dedicata la copertina è dedicata al teatro, con Renato Palazzi, che è il critico, così potremmo dire, per adulti di teatro della domenicale, ma che spiega appunto ai bambini, a tutti noi, come il teatro sia una magia. E per illustrare questo articolo, un bellissimo disegno di Lele Luzzati, che è stato un grandissimo illustratore ma anche scenografo, scomparso nel 2007, Genova gli ha dedicato un bellissimo museo, e appunto c'è un disegno dove ci sono i tre grandi maestri del teatro, Shakespeare, Molière e Goldoni. La lettura del Corriere della Sera, come sempre, affida la copertina a un artista. Questa settimana è Elia Festa, e dall'interno vi segnalo la storia di Alberto Gutierrez, che era uno spazzino, ha fatto lo spazzino per tanti anni. 20 anni fa a Bogotà raccolse un romanzo nella spazzatura, appunto. Da allora ha recuperato 20.000 volumi e ha aperto biblioteche. Questa storia stupenda ce la racconta Davide Francioli sulla lettura. E anche la lettura recensisce il libro che vi dicevo prima, 14 scoperte scientifiche che non sono servite a niente, e il titolo della recensione, in questo caso di Guido Tonelli, è Come è seducente la scienza dei cialtroni, che poi vi assicuro i titoli sono sempre fatti anche per attirare il lettore, però queste ricerche assurde sono però molto fatte, molto serie, seguendo appunto i dettami della ricerca scientifica. Robinson, il supplemento della Repubblica, che tra l'altro questa settimana è stato premiato graficamente, io personalmente lo trovo abbastanza difficile da leggere come grafica, però forse è solo una questione di abitudine, perché siamo solo al numero 22. La copertina è dedicata a un lunghissimo articolo, è dedicata alla post-verità, ed è un lunghissimo articolo di Alessandro Baricco, che sostiene che post-verità è sbagliato è un'idea sbagliata che esista una post-verità, e che in realtà non esiste questo neologismo, non ha un, è un neologismo ma è privo di vuoto di significato. L'ultima segnalazione che posso farvi è una invece sempre da Robinson, un bellissimo colloquio di Paolo Cognetti con Angela Terzani, che è la vedova di Tiziano Terzani. La mia vita con Tiziano, e appunto spiega, racconta i viaggi, le case, gli incontri di una vita avventurosa fino all'eremo dell'Himalaya, dove, sapete, Tiziano Terzani trascorse gli ultimi anni della sua vita. Tutti mi dicono: io non l'avrei mai fatto, invece, dice Tiziano Terzani, è stato un privilegio. Era l'ultima segnalazione per oggi. Ancora un grazie a tutti gli ascoltatori, a chi ha mandato messaggi, a Filippo Aureggi in regia, e chi vorrà, domani mattina appuntamento verso le 7:15 per la rassegna dei quotidiani del 1° maggio. Una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.